e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben trovati a Cuore e Denari. Riprendiamo la nostra trasmissione, 4 gennaio 2016, riprendo da sola. Avevo lasciato la patata bollente per l'ultima parte dell'anno a Nicoletta, che mi ha gentilmente coperto nelle giornate natalizie. Poi le ultime due puntate le abbiamo fatte insieme, come ricorderete. Adesso riprendiamo questo inizio anno da sola, ma Nicoletta torna presto. Io ne approfitto anzi per salutarla, mandarle gli auguri di buon anno, anche se naturalmente ci siamo sentite in questi giorni. Come iniziamo l'anno a Cuore Denari? Ve lo abbiamo promesso nell'ultima puntata del 2015, i più affezionati di voi lo ricorderanno senz'altro. A partire da oggi, per qualche puntata, avevamo detto: ci occuperemo a Cuore Denari di tutte le novità che impatteranno quest'anno sulle tasche degli italiani. E ce ne sono davvero molte, per tutti i gusti, in molti casi ci sono anche delle novità positive, ma chiaramente noi cercheremo di spendere i nostri approfondimenti su quei temi che hanno un'implicazione diretta e pratica nelle attività quotidiane o comunque ricorrenti. Per cui, da che cosa abbiamo deciso di partire? Effettivamente il verbo partire è quello giusto, perché partiamo proprio da un tema che più o meno ci interessa a tutti: l'universo trasporti a 360 gradi, perché si profilano molte novità per il mondo dei viaggiatori. Lo sapete, molti giornali ne hanno parlato, in questi giorni lo abbiamo fatto anche noi a Radio 24, molti approfondimenti anche per quello che riguarda i telegiornali appunto nazionali. Ci sono molte novità per il mondo dei viaggiatori e dei pendolari, per cui prendiamo anche noi penna e taccuino nella prima parte di questa puntata, facciamo la lista dei punti che ci interessano. Sapete che sono già partiti gli aumenti per le tariffe di molte tratte autostradali, vengono ritoccati anche verso l'alto i costi di molti treni, soprattutto di molti freccia rossa. Ci sono anche novità per quello che riguarda, questo è stato uno dei temi forse più spinosi e controversi, perché anche di difficile comprensione per chi viaggia molto, i ritocchi verso l'alto per i costi dei biglietti aerei. C'è una struttura tariffaria peraltro per il costo del biglietto aereo che è estremamente articolata e complicata. E quindi stamattina abbiamo deciso di partire per la parte di denari da questo argomento. A proposito del tema partire, nella seconda parte del programma invece partiremo con il piede giusto per quanto riguarda il nostro allenamento sportivo. Con l'anno nuovo, come sappiamo, non mancano mai i buoni propositi e buona parte di questi riguardano proprio l'attività fisica, un po' perché dobbiamo sbrigarci a ricominciare a smaltire tutto il panettone che ci siamo mangiati in questi giorni. Sappiamo che anche un piccolo pezzetto di quel dolce, insomma, è un carico di calorie non indifferenti. Quali sono i buoni propositi dell'anno? Camminerò di più, mi iscriverò in palestra, almeno una volta alla settimana andrò a nuotare e così via. Non ci dobbiamo però dimenticare che per allenarsi nel modo giusto dobbiamo prima di tutto fare un corretto riscaldamento. Voi lo fate? Come lo fate? Questo sarà il tema oggetto della seconda parte della nostra trasmissione. Allora, sia per parlare delle partenze, di quanto costa di più muoversi, spostarsi con i mezzi che naturalmente è necessario utilizzare, 800 24 00 24, se avete già fatto l'esperimento di uno degli aumenti di cui parleremo questa mattina, e poi naturalmente interpellateci sempre al numero verde anche per il tema allenamento. Quali sono i vostri buoni propositi di inizio anno? Da che cosa partirete? Avete già dato il via alla vostra stagione di movimento, avete già rimesso piede in palestra, anche se è solamente il 4 gennaio, molti lo hanno fatto perché molti centri sportivi peraltro hanno mantenuto regolarmente l'attività aperta, per cui insomma tanti argomenti da affrontare con noi anche in questa prima puntata di Cuore e Denari dell'anno. Decolliamo, avete sentito, chissà quanti di voi peraltro magari faranno le proprie vacanze proprio nei prossimi giorni, hanno aspettato i primissimi giorni dell'anno perché magari hanno trovato anche dei prezzi più convenienti. Naturalmente è chiaro che nel pieno dell'alta stagione i costi sono un po' più alti, per cui magari qualcuno che ha l'opportunità anche di organizzarsi con il lavoro parte in un momento diverso e lo fa proprio in questi giorni. Decolliamo anche noi con la pagina di denari. Una delle questioni più controverse di questo inizio 2016 in materia di trasporti riguarda l'aumento delle tasse aeroportuali, che incideranno in una certa misura sui biglietti aerei. Per la precisione, è una questione un po' complicata, anche io ho fatto molto fatica a capirla. Si tratta di un aumento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aerei, appunto, che comporta dal 1 gennaio 2016 rincari anche consistenti e significativi per alcuni viaggiatori. Ci sono poi delle novità per i pendolari di molte tratte ferroviarie, ci sono novità per i pedaggi autostradali, sono un aumento i canoni Telepass, insomma, per i nostri spostamenti dovremmo mettere mano al portafoglio. Per fortuna che almeno i carburanti sono un po' tranquilli, data la costante discesa del prezzo del petrolio, appunto, che è stato un grande tema che ha movimentato anche le sedute di borsa di questi ultimi mesi. E poi, date anche le iniziative prese in molti comuni per ridurre le emissioni inquinanti, in auto si dovrebbe in prospettiva circolare un po' meno quest'anno, quindi questo potrebbe anche un po' alleggerire il peso del portafoglio. Allora, voi che cosa volete dirci su questi temi? Vi siete già misurati con, per esempio, l'acquisto di un biglietto aereo più salato? Avete sottoscritto un nuovo abbonamento ferroviario e vi hanno fatto il sorpresone di inizio anno? Avete percorso già una tratta autostradale, per esempio del nord, che sono quelle più caricate degli aumenti delle tariffe di inizio anno? 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, per le vostre domande. Noi stamattina ci confronteremo con due ospiti. Intanto ringrazio e saluto Andrea Giannetti, presidente di Federturismo Confindustria Travel. Buongiorno Giannetti, buon anno naturalmente. Buongiorno. L'abbiamo subito interpellata per parlare di problemi, per cui lei non sarà molto contento di averci sentito, però lo spero che lo sia ugualmente. Intanto buongiorno. E poi saluto e ringrazio Bruno Albertinelli, responsabile trasporti di Feder Consumatori. Buongiorno Albertinelli, buongiorno. Buon anno anche a lei. Buongiorno. Ricordo ancora che naturalmente, oltre al numero verde per poter intervenire in diretta sul tema di questa mattina, i nostri ascoltatori possono anche scriverci al 349-238-6666. Io non solo vedo gli sms, ma ho anche la visualizzazione della schermata WhatsApp, per cui potete anche gratuitamente interagire con noi e quindi arricchire il nostro programma con le vostre considerazioni. Allora Giannetti, io volevo cominciare con lei. Mentre diversi paesi pensano di eliminare le tasse aeroportuali, in Italia si procede in senso contrario, capita spesso così, sempre con tante questioni. Ma prima di commentare questa iniziativa dell'aumento del costo dei biglietti aerei per questa faccenda dell'aumento delle tasse aeroportuali, ci racconta un po' che cosa hanno fatto gli italiani in queste giornate di vacanza? Dove sono andati? Quanto hanno speso secondo il vostro osservatorio? Ma dunque, il nostro osservatorio ha un'analisi più che altro sul chi esce dall'Italia. Nella parte interna si risultano spostamenti, direi, buoni, migliori dello scorso anno. Per quanto riguarda l'estero, chiaramente essendo escluso tutto il Nord Africa, che era una meta comunque appetibile anche in periodo invernale e con le vacanze di Natale, quest'anno non ha chiaramente funzionato. Ha funzionato piuttosto bene il lungo raggio, lì non abbiamo avuto battute d'arresto, per cui tutto il mare lontano, tutti gli Stati Uniti hanno funzionato bene. Avete anche individuato un po' quelle che sono le somme che hanno messo sul piatto gli italiani, quanto hanno speso? Il totale complessivo onestamente non l'abbiamo. Siamo un paio di punti in più degli scorsi anni, comunque si parla di qualche miliardo complessivo fra l'esterno e l'estero. E siete soddisfatti o no di questa rimessa in circolazione degli italiani, che insomma abbiamo bastonato negli ultimi anni con tante notizie sulla crisi, qualche volta probabilmente anche condizionandoli un po' emotivamente? Anche quelli che volevano partire magari si sono così rimessi in carreggiata, ci hanno ripensato proprio per una questione più che altro psicologica che concreta, no? Siete contenti di come sta riprendendo oppure ci sarebbe ancora siamo abbastanza soddisfatti per quanto riguarda il mercato degli italiani in uscita, come siamo abbastanza soddisfatti per gli arrivi, che hanno ripreso in maniera consistente. Purtroppo un po' fermo il mercato nordamericano, ma comunque è un segno positivo molto buono. È fermo il mercato nordamericano, Giannetti, perché si stanno riproponendo queste questioni relative alla sicurezza internazionale, quindi non si va magari in certi luoghi che si presume possano essere oggetto dell'interesse terroristico, o ci sono delle altre ragioni a suo avviso? La ragione principale è questa. Il numero di americani che ha passaporto non è elevatissimo, sono circa il 20% della popolazione. Però incide molto le tensioni internazionali sui loro spostamenti anche verso l'Europa. Mm-hmm. Per loro è un viaggio come per noi andare oltreoceano importante, e magari dopo i fatti di Parigi hanno chiaramente ha avuto una battuta certo. d'arresto. Alla luce di non questo globale, totale, alla luce di questo ragionamento che ci ha fatto, quindi che cosa ragionevolmente si può prevedere per questo 2016? Quali saranno anche le mete suggerite, considerati i focolai di tensione internazionale, che non aiuteranno certo per appunto evidenti ragioni di sicurezza e porteranno gli italiani a scegliere determinate mete? Che prospettive si possono già individuare per l'anno appena partito? Anche perché molti pronosticano, lo fa Renzi in primo luogo, che ci spera tanto che possa essere l'anno, se non della svolta economica, quantomeno della ripresa un po' più rafforzata. Questo a suo avviso come inciderà nel vostro settore? Ma il nostro settore, per quanto riguarda gli arrivi, dovrebbe essere buono per gli spostamenti interni dell'Europa. L'Italia dovrebbe avere degli ottimi vantaggi nel corso del 2016 per quanto riguardano gli arrivi. Per quanto riguarda gli italiani, anch'essi si sposteranno nel periodo estivo nel bacino del Mediterraneo, con chiaramente alcuni cali, perlomeno già sensibili da adesso, che sono la Turchia, che il processo di tensione porta comunque ad essere esclusa dall'immaginario certo. collettivo per la vacanza. Allora, abbiamo ripreso cuore denari intanto sognando un po', immaginando anche alla luce delle problematiche di natura internazionale quello che potrebbe essere il nostro viaggio di quest'anno, quello sul quale riporre un po' le nostre idee, i nostri sogni, cominciare a mettere da parte magari qualche soldino per fare nei prossimi mesi il viaggio che abbiamo sognato da tempo. Detto questo, dottor Giannetti, andiamo invece al tema titolo di viaggio, vale a dire biglietto aereo, perché la novità di quest'anno è che arriva l'aumento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, appunto degli aerei. E questa misura è stata introdotta a seguito di un decreto interministeriale, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Economia, Ministero dei Trasporti, datato 29 ottobre, a seguito di questo provvedimento, chi si imbarca su un aereo ad eccezione delle destinazioni nazionali dovrà pagare una tassa da 9 euro a biglietto, che sale a 10 euro nel caso in cui si parta da un aeroporto romano o Ciampino o Fiumicino. Ci spiega meglio questa novità? Guardi, io la spiego male, nel senso, bisognerebbe chiederla ai legislatori. È chiaramente è semplicemente un balzello. Cioè, è evidente che è un sistema di tassazione che deve portare nelle tasse dei comuni, i quali dicono che serve per attrezzare le viabilità di tipo aeroportuale, o comunque lo giustificano in maniera terza, ma non c'è prova che questa vada in quella specifica direzione. E viene sommata all'interno di quelle tasse, peraltro non rimborsabili nella fase di cancellazione del volo, che il passeggero, che chiunque di noi si sposti, è obbligato a pagare. Vi sono fasi alterne, appunto Roma l'ha piuttosto marcata in termini economici, altre aree hanno 1 euro, 2 euro di tassa d'imbarco che il comune incassa nel giro fra le compagnie ENAC e così via. È un po' simile a quella tassa di soggiorno che si deve pagare in albergo, Giannetti? Adesso è una sorta di tassa non di soggiorno, in questo caso di uscita dal proprio paese, o comunque il passeggero che si imbarca a Roma, a Fiumicino o a Ciampino, chiaramente ha in più questo costo da sommare al prezzo del biglietto e alle tasse già contenute all'interno del biglietto. Mm. Tra l'altro, in tutto questo c'è una sola buona notizia. Ecco, ce la dica un po', va, perché sennò... tecnica. Alitalia ha fatto una scelta che sta concludendo adesso, l'unica compagnia che va in controtendenza, di portare fuori dal sistema delle tasse, da quello che nel biglietto è chiamato tasse, ma portarono nella tariffa il costo del carburante. La differenza è sostanziale, perché in questo caso chi non vola avrà diritto al rimborso di quell'importo. Nella fase precedente non era rimborsato, per cui onore tutte le volte che sbagliano, lo diciamo, ma onore quando fanno delle scelte verso i consumatori. La ex compagnia di bandiera veramente l'abbiamo massacrata negli ultimi anni, contestandole ogni cosa, a partire dai suoi diversi piani di riorganizzazione messi a punto appunto negli ultimi anni, che hanno portato anche tanti disagi nel mondo dei lavoratori, per una volta tanto in cui possiamo raccontare una buona cosa, ha fatto bene raccontarla Giannetti. Peraltro, tra l'altro, tornando appunto alla struttura complessiva del costo del biglietto aereo, lei mi spiegava proprio prima ci siamo sentiti naturalmente con Giannetti, prima di iniziare la trasmissione al telefono per un attimo per confrontarci, praticamente la struttura del costo del biglietto aereo è veramente più articolata di tutto il meccanismo, io ho fatto questo parallelo che non so se sia calzante o meno, più articolata di tutto il sistema delle accise che grava sul costo finale appunto di un litro di carburante. Giannetti, che cosa c'è dentro? Beh, c'è di tutto un po', tolto quello che è tariffa pura, che fino appunto a, per adesso e per tutte le compagnie, spero dalla, da quest'anno esclusa l'Italia, all'interno di nelle tasse c'è anche la sovrattassa carburante. È un sovrapprezzo che le compagnie liberamente inseriscono nell'area di tassazione, sotto la voce IORC-Q. Dopodiché abbiamo un'altra tassa che è quanto incassa l'aeroporto per l'utilizzo delle aerostazioni, la quale comprende il controllo dei radiogeni delle valigie in stiva, il controllo dei radiogeni per il bagaglio a mano. Poi c'è una tassa che è quella dell'aviazione civile che incassa l'ENAC, che serve a finanziare il funzionamento dell'ENAC, che è l'ente nazionale dell'aviazione civile. L'ENAC serve a tirar su tutta la struttura funzionante. E poi c'è questa tassa XT, all'interno della quale c'è di tutto di più, dove c'è la sicurezza, la difesa dell'ambiente, altri voci che cambiano rispetto se il volo è charter o è linea. Insomma, è un'articolazione molto complessa e non sempre facilmente comprensibile nell'acquisto di un biglietto. Esatto, e questo è il motivo. Su tratte brevi abbiamo più tasse che costo di tariffa. E così l'abbiamo spiegato anche ai nostri ascoltatori, i motivi per cui quando poi magari c'è un disservizio aereo e le compagnie oppongono della resistenza per rimborsare, anche se chiaramente il viaggiatore non ha responsabilità della struttura tariffaria di questo biglietto, questo è il motivo per cui qualche volta il rimborso non può essere automatico ed è difficile anche per la stessa compagnia, che può indennizzare solo una parte e non tutta. Almeno questo è il ragionamento che faccio io, poi sentiremo se l'associazione dei consumatori è d'accordo. Sì, Gianetti. A maggiore chiarezza, tutta la fase di tasse non la incassa la compagnia, la incassa la compagnia per conto, fa un po' il sostituto d'imposta, esatto. E poi la riversa, c'è una camera di compensazione che la riversa allo Stato, in teoria allo Stato, in realtà allo Stato va soltanto il 10%, tutto il resto viene incassato dai sistemi aeroportuali. Ecco qua. Nel caso delle tasse addizionali vengono ribaltate sulle aree comunali che l'hanno emessa attraverso questo sistema. Un ultimo ragionamento, 30 secondi Giannetti, poi la salute, vado all'associazione dei consumatori, ma farò anche un punto di borsa, perché oggi parte proprio male la settimana, parte proprio male l'anno per i mercati finanziari, quindi ci sembrava doveroso, visto che ce ne occupiamo spesso, fare un punto della situazione anche per quello che riguarda l'andamento della borsa. Questo aumento delle addizionali comunali, appunto, che graveranno sul costo complessivo dei biglietti aerei, secondo voi comporterà anche degli effetti sulle prenotazioni? Siete in grado di fare delle stime, oppure insomma a bocce ferme non è ancora possibile stabilire se i viaggiatori faranno delle scelte diverse rispetto alle loro prenotazioni alla luce di questi aumenti? Ma certo non aiuta, come non aiutano alcune scelte di tipo oligopolico di alcune compagnie europee. Cioè, più il passeggero è costretto a pagare cose che non capisce, non comprende, non inerenti al servizio, più si tarano i voli non per incrementare il viaggio e lo spostamento delle persone, ma per interessi oggettivi e anche comprensibili, ma delle imprese che fanno le compagnie aeree. Cioè, evidentemente il più penalizzato di tutti rimane il consumatore, per cui quello che tutti diciamo di voler incrementare, cioè la conoscenza, lo spostamento fra le persone, che è un incremento di cultura innanzitutto, ma anche di business, il che non è secondario. Grazie. E questo è frenato da questo processo. Grazie ad Andrea Giannetti. Noi naturalmente le auguriamo il meglio per quello che riguarda la vostra attività nel settore turistico, non solo per l'assistenza a tutti quegli italiani che vogliono andare a farsi dei viaggi in giro per il mondo, ma soprattutto naturalmente per gestire al meglio anche tutto ciò che attiene al mondo dell'accoglienza per tutti coloro che dall'estero invece vengono a trovarci in Italia. Giannetti, grazie, buon anno. Grazie, auguri a tutti. Allora, noi ci fermiamo adesso. Albertinelli, non mi sono dimenticata di lei, ci sono tantissime domande da parte dei consumatori, so che a voi piace naturalmente interfacciarvi soprattutto con loro che pongono già delle domande, ci sono degli ascoltatori che vogliono raccontarci un po' cosa hanno, cioè stanno facendo gli inviati per conto nostro praticamente sul territorio, ci raccontano già che aumenti hanno notato, pagato e sopportato. C'è Vito che a WhatsApp ci scrive che cosa significa sovrapprezzo sul carburante, adesso Albertinelli lo faremo sbizzarrire anche su questo e poi tante altre domande ancora. Intanto, tra una storia e un'altra, abbiamo fatto le 10:47, devo sentire cosa succede sulle strade italiane. Carmelo, vai. e denari. Sì, viaggiare evitando le buche più... Sì, continuiamo il nostro viaggio di inizio anno in questo primo lunedì del 2016. Qui a Cuore e Denari stiamo parlando di trasporti, del rapporto fra i nostri mezzi di trasporto e i nostri denari. C'è una raffica di aumenti in questo inizio dell'anno e allora subito turbiamo i sonni, speravamo fossero tranquilli dei nostri ascoltatori raccontando loro che cosa sta succedendo. Quanto avete speso peraltro nel 2015 per trasporti e viaggi? Non parlo di vacanze, parlo proprio di quei trasporti magari quotidiani per raggiungere il posto di lavoro o se siete magari anche degli studenti per raggiungere il posto dove studiate, l'università, pagate un abbonamento da pendolari, siete sempre a caccia di voli low cost, se viaggiate anche spesso sempre per ragioni di lavoro, viaggiate in autostrada, tenete sotto controllo i costi al casello. Noi vi aspettiamo all'800 24 0024 con tutti i vostri interventi. Prima però faccio fare gli straordinari radiofonici oggi ad Andrea Fontana, collega di radio con il Sole 24 Ore. Andrea, ciao, buongiorno. Buongiorno Deborah. Dobbiamo raccontare cosa succede in borsa questa mattina, perché vedo un bel meno 3,27% per Francoforte, Parigi meno 2,20%, Londra meno 1,71%, Milano meno 2,21%, l'Asia stamattina non diciamo neanche come è partita, meno 6, meno 7%, sono addirittura state sospese le contrattazioni, ce ne occuperemo per tutta la giornata, intanto aggiornaci un po' su questo avvio d'anno totalmente in salita per i mercati. Sì, diciamo che il tonfo di Shanghai ha guastato diciamo i propositi di rialzo della prima seduta dell'anno a borse complete, un ribasso dovuto in parte al quinto calo consecutivo dell'attività manifatturiera in Cina, quindi un nuovo campanello d'allarme mensile sull'attività economica cinese, in parte una serie di tensioni sul mercato finanziario cinese dovuto ai paletti che Pechino sta mettendo, ha messo anche nel corso dell'estate sulle contrattazioni proprio sì, per frenare l'eccessiva volatilità, e questo ha avuto riflessi sulle borse europee, ne sta pagando le spese soprattutto Francoforte, che è la più esposta soprattutto con i titoli dell'auto e dell'industria tecnologici ai mercati cinesi, ma anche Milano perde il 2,2% e a Milano paga soprattutto il lusso e il settore tecnologico sono quelli più penalizzati. E infatti Salvatore Ferragamo, qua tanto per non saperne leggere né scrivere, parte con un ribasso del 5% nell'anno, Moncler meno 4%, ma abbiamo cali di oltre 3 punti su Saipem, STM, come dicevi, CNH Industrial. Un flash, ma noi ne stiamo parlando nei giornali radio, su Ferrari e Fiat. Allora, per Ferrari debutto stamattina a Piazza Affari, meno 0,46%, in realtà il titolo era partito molto peggio, è andato in asta di volatilità, più o meno questo è il prezzo che avevano ipotizzato gli analisti, 43 euro, adesso aspetta che lo sto vedendo, 43,24 euro. Sostanzialmente sì, è allineato a quello che è il prezzo, diciamo così, tecnico di scorporo di Ferrari da Fiat, che era 43,44, diciamo è un leggermente più basso rispetto alle quotazioni di Wall Street che viaggiavano sui 48 dollari, per cui più o meno corrispondente a 44 euro, vedremo poi come si allineerà oggi Wall Street e quindi il prezzo di Ferrari Wall Street a quello di Milano. Per quanto riguarda, la stessa cosa più o meno sta avvenendo per Fiat Chrysler, che è sostanzialmente inferiore dell'1% rispetto anche lì al valore rettificato, quindi intorno a 8,5 euro per azione, quindi però in mercati che calano esatto, sono comunque performance di tenuta. I titoli insomma si sono aggiustati anche abbastanza rapidamente. Andrea, intanto grazie, ci risentiremo forse nelle prossime ore insieme a te, se ti può consolare faccio gli straordinari anch'io, perché stasera sono al timone di Focus Economia a partire dalle 17, per cui buona giornata e grazie per il tuo aggiornamento, a presto. Buona giornata a te Deborah. Allora, dalle autostrade alle ferrovie dello Stato, i consumatori italiani rischiano di non fare in tempo a festeggiare la promessa e sospirata riduzione della pressione fiscale su alcuni fronti, e questi potenziali risparmi probabilmente saranno bruciati dalla pioggia di aumenti in arrivo che riguarda questa pioggia soprattutto i trasporti. Sono arrivati gli aumenti delle autostrade, poi i prezzi base dei biglietti dei treni delle ferrovie dello Stato italiane, freccia rossa, freccia argento, freccia bianca, c'è un incremento medio del 2,7%, e poi ci sono anche gli aumenti dei biglietti aerei che dicevamo prima, tutto questo, Bruno Albertinelli, Federconsumatori, quanto peserà complessivamente nelle tasche degli italiani? Perché voi, come sempre, come Federconsumatori insieme ad Adusbef, avete già fatto, insomma, il preventivo di inizio anno. Sì, è un preventivo di inizio anno che però abbiamo già ritoccato. Noi nel preventivo di inizio anno, che prevedeva un aumento nel corso del 2016 di circa 725 euro a famiglia di costo annuo in più sulle varie voci che aumenteranno, avevamo calcolato l'aumento per i trasporti a 67 euro, mentre invece l'aumento dei trasporti con tutte le novità che sono partite dal 1 gennaio, purtroppo dai nostri conti è un aumento che non è più di 67 euro ma diventa di 104 euro. Ah, però, senta, ma che cosa vi era sfuggito? Come mai? Facilmente noi abbiamo ragionato su un indice di inflazione del 2015 che non è stato il modo di ragionare di chi ha portato ad aumentare le varie voci di spesa, a partire dai treni, a partire dal tele, passa a partire dalle autostrade, perché non si tiene conto di quello che è il ragionamento dell'inflazione che ci siamo lasciati alle spalle, che è stata molto bassa e che quindi in automatico gli aumenti noi abbiamo ragionato che avrebbero dovuto funzionare in quel percorso, mentre invece purtroppo non è stato così. Allora, intanto le dico che ci sono molti ascoltatori pronti ad intervenire sul tema di questa mattina, lo immaginavamo naturalmente, anche se in molti magari farebbero volentieri a meno di chiamare la radio in questa giornata che è ancora di festa per molti, insomma ancora molti sono fuori dall'ambiente di lavoro, e invece il tema è talmente caldo che tanti ascoltatori vogliono già esprimere la loro considerazione, ma soprattutto raccontarci cosa hanno notato. Giancarlo da Monza, lo sentiamo subito. Giancarlo, benvenuto. Buongiorno. Giancarlo, sì. Volevo dire questo, io normalmente volo, diciamo, con Alitalia e prendo la tratta Milano-Napoli, diciamo attorno a giugno-luglio. Sì. Io ho notato che l'anno scorso, diciamo come anni precedenti, spendevo all'incirca attorno ai 200-220 euro. Sì. Quest'anno vedo che sono 400 euro. Ah, però, senta, 220 euro a viaggio per questa... Viaggio per due persone in economica, no? Certo. In economica, quindi diciamo, un'andata e ritorno. 2,20 sono diventate 400. E questo, esatto. Immagino Albertinelli non sia in ragione di di quell'addizionale comunale. No. Io vedo che all'Italia quest'anno ho messo una tariffa light in cui, diciamo, uno può viaggiare senza bagaglio, no? Sì, e è vero. Diciamo porta un piccolo risparmio, no? Rispetto. Però non esiste più la tariffa promo che, diciamo, c'era in precedenza, no? E quindi quella, diciamo, in un certo senso avvantaggiava, certo, anche nel costo, no? Allora, la ringrazio. Allora, il tema è che probabilmente su questa tratta qua non ci sono molte compagnie aeree che possono far concorrenza ad Alitalia. Adesso mi spiace anche dover parlare di loro e loro non ci sono. Albertinelli, però, in genere si sa così che quando ci sono delle, come dire, posizioni un po' monopolistiche, si fa la voce grossa da padrone. C'è poco da fare, che dice? Ha pienamente ragione. Il fatto che ci siano in quelle tratte, sono fallite delle compagnie aeree, se vogliamo ricordarci, negli anni passati, ed è chiaro che se io rimango unico detentore, unico monopolista di quello che è la possibilità di far viaggiare le persone, applico tariffe che sono poi al di fuori di ogni logica da un punto di vista di aumento che deve essere il più possibile ragionevole e, mi permetto di dire, anche alla portata delle persone che vogliono viaggiare. Faccio ragionamento diverso, noi lo stesso percorso di un aumento indiscriminato, uso questa espressione, è nato sul percorso del Telepass, dove c'è soltanto una società che è detentrice del ragionamento del Telepass, tant'è che noi siamo ricorsi all'antitrust per un discorso di monopolio e di non concorrenza all'interno del percorso, esatto, di questo aumento. È il monopolio naturale, esatto, dell'autostrada. E l'antitrust ha chiesto giustamente, per quindi vuol dire che ha preso in esame il nostro esposto, l'antitrust ha chiesto di avere della documentazione aggiuntiva che abbiamo spedito, certo, però è lampante. La liberalizzazione forse porta, in alcuni settori ha portato un po' di confusione, perché poi in Italia riuscire a fare le cose in maniera corretta ci va sempre un po' più tempo che altri paesi. La liberalizzazione del mercato porta determinati ragionamenti, ma se io sono l'unico all'interno di un percorso che posso far viaggiare, è lampante che determino io il prezzo, perché non c'è concorrenza. Certo. Allora, intanto sono le 10:58, fra un minuto devo dare la linea alla regia perché andremo a sentire il giornale radio, ma un commento flash sul tema dell'aumento dell'addizionale comunale che graverà sul costo finale dei biglietti aerei. aerei. Albertinelli, voglio sentirlo appunto anche alla luce della complicata struttura tariffaria che biglietti aerei hanno. Che ne pensa? Come giudicate questa novità? Ma la giudichiamo negativa, perché guardavo prima, dal 1995 le tasse aeroportuali nel resto del mondo sono diminuite del 65%, noi continuiamo a aumentarle. Se nel 2012 era 4,50 euro, questa tassa che adesso diventa 9-10 euro, vuol dire che siamo veramente abbastanza anomali. Teniamo presente una cosa: questi 2,50 euro di aumento della tassa non vanno al comune, vanno nel fondo all'Italia. Lo spieghiamo dopo, Albertinelli. Tempo di giornale radio. Cuore e denari. Poi tra l'altro tante volte si viaggia e non solo dobbiamo sopportare gli aumenti e i rincari di cui stiamo parlando questa mattina, qualche volta abbiamo anche dei viaggi veramente, ne parla una che la tratta autostradale per andare nelle Marche, ad Ancona la percorre spesso, insomma ci dobbiamo sobbarcare anche di viaggi non tanto confortevoli. Comunque, anno che viene, anno che va, e non sono solo i mesi ad andare via veloci, tutti noi ci muoviamo, ci spostiamo per piacere o perché ce lo richiedono i nostri impegni di vita, di professione, di lavoro, di scuola. Oggi nella prima ora di Cuore Denari stiamo parlando proprio di quanto ci costano e ci costeranno di più in prospettiva nel 2016 gli spostamenti e i trasporti. Voi avete già fatto una quantificazione di quanto i nuovi oneri incideranno sul vostro bilancio personale e finanziario? Raccontatecelo all'800240024. Quanto avete speso nel 2015 per trasporti e viaggi? Quanto presumete di spendere nel 2016? Pagate un abbonamento da pendolari? Siete sempre a caccia di voli low cost? Viaggiate in autostrada? Tenete sotto controllo i costi? Al casello vi aspettiamo con tutti i vostri interventi fino alle 11.30. Rimane con noi Bruno Albertinelli, responsabile trasporti di Federconsumatori. Sentirei Paolo da Milano per poi continuare il nostro ragionamento sui biglietti aerei, ma anche appunto sul costo delle tratte autostradali che hanno subito dei rincari in questo primissimo frangente dell'anno, e soprattutto sono le tratte del nord a pagare il dazio più alto. Paolo da Milano, cosa vuole raccontarci? Buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare di una nuova situazione che si sta creando, che potrebbe sembrare anche una trappola vista con occhio Un po' malizioso, è certo, io non ho. Però vabbè. Comunque, insomma, ci stanno prendendo. Se lo ha precisato forse un po' ce l'ha Paolo, in realtà, sì, anche, pensierino anche malizioso. Anche a scanso di conseguenze, come dire, extra radiofoniche. No, ci mancherebbe, non c'è mai successo allora niente di grave Paolo, comunque denunciare le situazioni, quantomeno solleviamo i problemi, ecco. Insomma, quello che succede è che si è aperta vicino a Milano un nuovo tratto di autostrada che si chiama Pedemontana, sì, certo, che si trova tra Milano e Varese. Questa, sì, autostrada non ha i caselli. Chi lo sa, chi ha il telepass passa tranquillamente, ci sono dei portali che rilevano la targa, chi ha il telepass viene tassato sul telepass con questi caselli. Chi non ha il telepass dovrebbe fare una... diciamo un versamento tramite carta di credito entro un certo tempo trascorso dal transito. Il problema è saperlo. Quanti di noi passando su un'autostrada si preoccupano di verificare questa è la 1, questa è la 4, questa è la 6? Perché le sbarre al casello non ci sono. Non c'è il casello. Ah. Quindi praticamente le auto vengono rilevate, la presenza delle auto viene rilevata dalle telecamere che vedono il numero di targa e quindi procedono con l'addebito se uno ha il telepass, altrimenti la società resta in attesa di un pagamento che dovrebbe essere fatto dall'interessato tramite carta di credito sul sito, eccetera. Stavo cercando di ricordare Paolo se nel caso abbia percorso quella tratta. Se ne accorgerà, perché se poi lei non paga in tempo, certo, arriva una multa che, a quel che so, io non sono stato direttamente multato per quel telepass, ma quel che ho letto sul loro sito, questa multa va dagli 80 a oltre 300 euro. Quindi lei non paga in tempo e si vede arrivare a un certo punto questa ingiunzione di pagamento. Ora ci sarebbe, ripeto, se una persona fosse maliziosa, di chiedersi qual sia il modello di business. E ci sono sicuramente state le proteste, perché per esempio chi viene dalla Svizzera che cosa ne può sapere? Esattamente. Uno entra senza sapere dov'è, vede che cosa vede? Vede un cartello che, se ricordo bene, dice tassazione attiva. Dopodiché sui portali c'è scritto www.pedemontana.it, e da questo io come cavolo faccio a dedurre che dovrei andare sul sito che sono stato passato? E poi esatto, anche certo. Allora Paolo, aspetti un po' lì. Albertinelli, Federconsumatori, la vostra sezione trasporti era a conoscenza di questa situazione? Sì, conoscenza. Questo è un tratto di autostrada senza caselli e senza quindi forme di pagamento all'uscita. Manuale, diciamo, ecco. Sì, è una delle uniche in Europa, in Italia la prima, in Europa ce ne pochissime, e ha un sistema, ha ragione il cittadino consumatore, uso questa espressione, ha un sistema orrendo da un punto di vista di pagamento, e poi ancora peggio è la penale, che va da 85 euro a 338 euro se non pago entro i 15 giorni da quando sono passato. E non c'è stata nessuna informazione precisa in merito a questo ragionamento di apertura di questo tratto autostradale, ma come non c'è nessun collegamento visibile per capire che entro in un pezzo di autostrada e che il sistema di pagamento è o il telepass o se no un percorso online. E quindi è veramente una cosa, detto che è una situazione anomala, al limite anche dell'avere un pensiero malizioso, come diceva il nostro ascoltatore, perché qua uno che non lo sa, è chiaro che con tutte le multe che possono arrivare, qua ci guadagnano un po' tutti, non solo la compagnia, poi magari anche l'amministrazione, chi gestisce quel tratto. Detto questo, noi non vogliamo stare qua a fare questi pensieri maliziosi. Come si può denunciare nuovamente questa faccenda, Albertinelli, perché qua forse come associazione dei consumatori dovete di nuovo alzare la voce affinché quantomeno la società si faccia carico di una comunicazione più trasparente nei confronti di tutti quei viaggiatori che si trovano a dover percorrere quel tratto? Guardi, il ragionamento che è uscito da un punto di vista di reclamo, lei giustamente diceva che è corretto fare reclami anche per radio, mi ha fatto scattare in mente una cosa molto semplice. Vedremo di preparare, tramite il percorso legale della Federconsumatori, un esposto all'autorità, per vedere un attimo che l'autorità intervenga intorno a questo ragionamento, perché da un punto di vista logico questo pezzo di tratto autostradale e la società che lo gestisce, secondo me, può tranquillamente l'autorità decidere anche di multarla per un ragionamento di non correttezza informativa, infatti, di non correttezza economica. Allora, intanto vedremo di preparare un esposto. Benissimo, ci metta anche la nostra firma, Albertinelli, se le fa piacere, okay, perché noi ce la mettiamo molto volentieri. Adesso, prima di andare in Sicilia, da Pino dalla provincia di Messina, volevo anche ricordare che dal 1 gennaio sono scattati anche gli aumenti dei biglietti delle frecce di Trenitalia, rincari in media del 2,7%, con variazioni che passano da più 2,3% per il biglietto base del Freccia Rossa Napoli-Roma, sempre quella tratta là, che passa da 43 a 44 euro, più 3,5% per il Roma-Milano, si passa da 86 a 89, che è una botta che non finisce più. Ritocchi anche che riguardano, attento alle parole perché qua dopo quello che è successo in Rai, ritocchi che riguardano solo le frecce, però precisano, rosse, argento e bianche, ha assicurato l'azienda, e solo per il biglietto base, cioè quello dal prezzo più alto e più flessibile, che lo scorso anno ha rappresentato appena il 10% dei biglietti venduti. Nessun cambiamento promettono per le offerte, così come per gli abbonamenti all'alta velocità. E però insomma l'aumentino arriva, e quanti abbonamenti ci saranno per l'alta velocità? Perché se vanno ad aumentare solamente quella rosa lì di biglietti, evidentemente un pochino di business ci sarà. Non so, Albertinelli, su questi aumenti qua cosa dobbiamo aggiungere? Ma gli aumenti credo che siano giustamente esagerati, uso questa espressione. Per quello che riguarda gli abbonamenti, è aperto un percorso con l'autorità Trenitalia e anche Italo, perché Trenitalia ha intenzione di limitare il numero degli abbonamenti e privilegiare le prenotazioni. Le prenotazioni incorreranno nel pagamento con aumento. Ed è una discussione aperta sul quale sia i comitati pendolari di tutte le tratte italiane dell'alta velocità, sia la Federconsumatori, abbiamo fatto assieme dei percorsi. C'è stato verso il 16 mi sembra di dicembre un primo incontro con l'autorità proprio per il ragionamento: non si può limitare il percorso degli abbonamenti. Che Trenitalia dica che gli abbonamenti verranno mantenuti in un percorso economico è, mi permetto di dire, abbastanza limitativo, non voglio dire un'altra parola, perché quel numero degli abbonamenti sarà stabilito all'inizio dell'anno e non sarà assolutamente più modificato dal loro punto di vista, almeno che l'autorità non intervenga ragionando in maniera completamente diversa. Frecce a parti, si stanno già sollevando le proteste in molte parti d'Italia di diversi comitati pendolari. Succede in Sicilia, dove appunto un comitato ha già fatto notare per il 2016 un incremento medio delle tariffe ferroviarie del 7,7% in alcune aree, idem in Toscana, dove da gennaio i biglietti aumenteranno del 3,46%, saliranno dell'1,9% gli abbonamenti in fascia agevolata per il reddito, che sono già scontati intorno al 20%, e dell'1,96% tutti gli altri abbonamenti mensili. Ora, ribadiamoci, fosse un'inflazione che galoppasse, i biglietti si adeguassero a questa, ci starebbe pure. Ci fossero poi, in realtà, questi comitati pendolari viaggiano in genere al Bertinelli su tratte che sono sempre molto oggetto di contestazione per ritardi di servizi, malfunzionamenti. No, il problema è questo: noi non contestiamo le percentuali di aumento se i servizi funzionassero sempre tutti a dovere. Dal punto di vista territoriale, per tratte regionali, appunto, voi che tipo di segnalazioni state raccogliendo? Ma stiamo raccogliendo segnalazioni di aumenti, di notevoli aumenti da un punto di vista di quello che è il percorso dell'incremento del biglietto aereo, che già è stato fatto in tantissime regioni. Teniamo presente che l'aumento però sulle tratte regionali è stabilito tra chi fa il contratto di servizio, che è la regione, con Trenitalia. Quindi una grande parte di responsabilità ce l'hanno anche le regioni sugli aumenti di quelli che sono i biglietti che vengono fatti pagare poi da chi prende il treno e lo prende con Trenitalia. Quindi un ragionamento dovrebbe vedere anche qui il rispetto di una normativa di legge, che dovrebbe vedere un incontro con tutte le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, tutto quanto, però lo tralascio questo. Il ragionamento lo diceva lei: se uno va a notare tutte quante le note che ci sono in internet, in particolare di tutti i comitati dei pendolari di tutte quante le regioni, noi scopriamo che ci sono le tratte regionali che stanno completamente scendendo da un punto di vista di qualità che era già bassa a favore dell'alta velocità, perché questo è il dato di fatto che esce fuori a livello nazionale. Trenitalia preferisce l'alta velocità, sta abbandonando con gradualità le tratte regionali, le regioni per motivi economici non riescono a garantire determinati percorsi aggiuntivi o, come si può dire, da un punto di vista anche del viaggiare in maniera corretta, non riescono più a garantirlo, e quindi c'è una caduta che senz'altro peggiorerà nel corso del 2016, che ci vedrà quindi un peggioramento da un punto di vista di quello che è il costo del biglietto, ma anche un peggioramento di una qualità che era già scarsa da un punto di vista di quello che è il viaggiare sulle tratte regionali. Allora, abbiamo due percorsi, uso questa espressione per capirci fino in fondo, che forse è scorretta. C'è chi viaggia in Ferrari, che viaggia sull'alta velocità, è proprio e c'è il chi tema del giorno, 500. Esatto, infatti. No, la stavo dicendo che è il tema del giorno, peraltro, visto che Ferrari si quota anche a Piazza Affari, quindi ha fatto l'esempio più calzante che potesse trovare. Senti, intanto le racconto un po' cosa ci stanno raccontando gli ascoltatori su WhatsApp con l'SMS. Adesso sentiremo anche un altro ascoltatore in diretta. C'è un'ascoltatrice, Silvana, che ci dice che chi viene dall'estero è esentato dal pagamento della pedemontana. Silvana, questo non lo sapevo. Invece l'altro ascoltatore diceva: attenzione, perché questa faccenda della non trasparenza sulle modalità di pagamento può gabbare soprattutto chi viene dall'estero, però pure lì bisogna dimostrarlo, evidentemente la targa dice tutto. Esatto. Un altro ascoltatore invece, appunto, ci diceva: guardate che la pedemontana si può pagare anche online, non c'è bisogno del telepass, abbiamo capito, sì. Giuseppe da Roma, però bisogna saperlo, perché chi non vede le sbarre, non ci sono i caselli, e lui pensa di poter pagare perché è gratuito quel percorso, e invece magari una bella fotografia in qualche maniera dal dispositivo che è installato, appunto, della targa, in realtà ci fa trovare il sorpresone qualche settimana dopo. sui tema delle tratte autostradali o degli abbonamenti regionali. Vabbè, un ascoltatore ci racconta che l'abbonamento al treno regionale mensile Veneto Mozzecane Verona andata e ritorno da €37,30 nel 2015 è passata a €37,60. Davide le è andata benino, mi pare, con 30 centesimi di aumento se l'è cavata. Questa mattina il mio tratto autostradale Rimini Nord Rimini Sud da 80 centesimi a 90, ma Maurizio da Rimini ce lo racconta e tante altre testimonianze ancora. Francesco da Perugia invece ci racconta che ha fatto un super viaggione straconveniente Bruxelles-Charleroi Ancona il 2 febbraio, lo paga prenotandolo con Ryanair €15,25. Mi sembra un costo ragionevole per un biglietto aereo, qua veramente costa meno andare a Bruxelles con una tratta low cost che magari pagarsi veramente 3 giorni di viaggio in metropolitana a Milano. Qua ci sono veramente a volte dei paralleli assurdi. Pino da Messina, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci io faccia sognare che... intanto, qua è tutto grigio, là un po' di il soleil... siciliano, sì, come andiamoli? Dopo 2 mesi di sole abbiamo la pioggia. Vabbè, anche a voi ogni tanto toccherà pure. Pino, ci racconti un po'. No, io volevo segnalare che il tratto Messina-Palermo, così come anche la Messina-Catania, diciamo tutto il tratto autostradale della Sicilia, è un vero disastro pieno di buchi, mal manutenzionata, specialmente il tratto Messina-Palermo, tutta quasi a deviazioni. E però c'è sempre l'aumento autostradale. Certo. Che qualcuno quei lavori deve pagarli e li paghiamo noi contribuenti, Pino, d'altronde. Capito, ma non è, i lavori non li fanno da anni, però stiamo parlando di 5-8 anni di manutenzione. Vabbè, senta, sempre un po' meglio del ponte sullo stretto sta andando, noi i tempi sono un po' più corti. Detto questo, noi chiaramente cerchiamo di come dire, allietare un po' il tema di stamattina con delle battute, c'è a volte ben poco da ridere, perché poi chi deve percorrere, sbrigarsi ad andare anche al lavoro, fare queste tratte tutti i giorni e trova... Sì, perché poi il tratto adesso hanno fatto un ponte proprio sul Messina e c'è una coda incredibile, la mattina basta che sbagli di 5 minuti e stai ore e ore in autostrada, cioè, certo. A me non mi sembra giusto. Pino, grazie per la sua testimonianza, ancora una volta ringrazio gli ascoltatori che ci stanno facendo un po' da corrispondenti sul territorio per raccontarci soprattutto la relazione della qualità, ovviamente dei percorsi che fanno e le spese che sostengono per fare questi percorsi. Sul tema siciliano vogliamo aggiungere qualcosa, Albertinelli? Ma credo che il tema siciliano sia poi il tema del sud. Il sud è messo malissimo sia in termini di treni, sia in termini sul trasporto su rotaia, sia in termini di trasporto su gomma. Credo che sia un dato nazionale che deve essere, mi auguro, quanto prima ripreso in maniera molto corretta e molto propositiva da parte del governo. Ci devono essere interventi per risolvere quello che è il problema, ripeto, delle tratte ferroviarie che non vanno assolutamente bene. Pensiamo che da Roma per arrivare a Campobasso mediamente la gente, se tutto va bene, senza incidenti, ci mette dalle 4 alle 5 alle 6 ore, che è una cosa allucinante. Cioè tutto il sud deve vedere un intervento pesante che veda anche, come si può dire, stanziamento di fondi per risolvere problemi che sono ormai non decennali, di più. Allora, intanto Dario ci racconta anche che il carnet 10 viaggi Freccia Bologna-Roma è passato, senta un po' qua, da €448 a €472, e quindi vorrei verificare se questo aumento sia del 2,7%, che mi pare sia il 2 più 2,3%, 2,7% sì, dei biglietti base delle tratte appunto Freccia Rossa che portano, vabbè, questo è Roma, ecco, diciamo che arrivano a Roma. Cioè, volevo sentire se Laura ce la fa rapidamente, se mi riesce a pescare Stefano da Bari, perché ha c'è già, eccolo qua, scusami, non l'avevo visto. Stefano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. No, perché buongiorno. Questa cosa, esatto, che si deve pagare il posto seduto è divertente. Sì, posto riservato. Penso che io sono un professore di strumento, insegno a una scuola media di indirizzo musicale, faccio sempre ogni giorno la tratta Bari-Foggia e Freccia Bianca, e noi abbonati non abbiamo un posto riservato. Qualora volessimo riservare, prenotare il nostro posto, dovremmo farlo ogni giorno prima di salire e pagare, oltre l'abbonamento, 2 euro aggiuntive. Io pago €164 di abbonamento al mese, Stefano? Al mese, sì, considerando che lo prendo ogni giorno. Poi giustamente vorrei appunto sottolineare una cosa molto importante, cioè Trenitalia non fa un discorso, come dire, vero, reale. Mettiamo per ipotesi che nello stesso giorno ci fossero 300 abbonati che fanno l'abbonamento e altre 400 persone di viaggiatori che giustamente vogliono prendere quel treno quel giorno per altri motivi, cioè non ci sarebbero i posti effettivi. In realtà fanno biglietti e abbonamenti a tutti e poi uno si arrangia come meglio può. Mm-mm. Stefano, che cosa vuole che le dica qua? I margini di miglioramento in tutte le situazioni sono sempre ampi e notevoli. Albertinelli, beh, però è curiosa questa faccenda. 2 euro se si vuole riservare il posto seduto mi pare un costo anche abbastanza alto per uno che paga già un abbonamento, perché è come se pagasse veramente quasi un biglietto aggiuntivo. Ma io che pago un abbonamento dovrei avere il diritto a sedermi. Attenzione, perché ipotesi... laddove nella freccia rossa, se io pago l'abbonamento e non trovo posto in seconda classe, uso questa espressione, posso andare addirittura in prima classe con il mio, perché non ho trovato da sedermi, cioè c'è qualcosa che non funziona, ma è abbastanza, come si può dire, passatemi il termine, ondivaga la gestione da parte di Trenitalia delle tratte ferroviarie. C'è una preferenza di tutela di un personale viaggiante che è quello che viaggia nell'alta velocità, c'è un percorso di tutela minore di un personale che viaggia su altri treni, e teniamo presente che l'unica cosa, se vogliamo, nel percorso di chi viaggia in particolare in treno positivo del 2016 è che non sono stati aboliti gli intercity, perché se no noi oggi discuteremo in maniera completamente diversa, certo, con tantissime persone arrabbiate perché dal 14 dicembre sarebbero dovuti essere eliminati gli intercity, poi per fortuna c'è stato un intervento e di nuovo questo percorso degli intercity dovrebbe rimanere. Cioè, è abbastanza, il mondo delle ferrovie è un mondo strano, uso questa espressione, dove ci deve essere un intervento pesante da parte di tutte le associazioni dei consumatori, ci deve essere un rapporto, mi permetto di dire questo, sì, di compartecipazione tra le associazioni dei consumatori e i comitati dei pendolari, perché chi viaggia è quello che ogni giorno patisce, ogni giorno è conoscenza di una cosa, e le associazioni dei consumatori sono quelle che, come state facendo voi oggi, la conoscenza di quelli che sono i disguidi per poter poi provare a rimediare laddove ci sono le cose che non vanno bene. Perfetto, via. Albertinelli, io la ringrazio molto per essere stato tutto questo tempo con noi. Le grazie, segnalo solamente che la faccenda della pedemontana sta sollevando su WhatsApp e i nostri messaggi un bel polverone, la dobbiamo chiarire, perché questa faccenda della modalità di pagamento non c'è chiara, io non ne sono a conoscenza, lo devo ammettere, per cui anche fare dei commenti che sarebbero fuori luogo non me la sento. Prendo atto di quello che ci ha raccontato l'ascoltatore che l'ha percorsa, per cui evidentemente le cose vanno come dice lui, per cui dovremmo documentarci al meglio e magari ritornarci al più presto su questo tema, se è così caldo per questa zona del Nord Italia. Intanto buon lavoro per tutto. Grazie, Albertinelli, buon lavoro e buona giornata. E buon 2016. Noi grazie, siamo arrivati. Buon 2016. Grazie alle 11.30, siamo arrivati alle 11.30, è tempo adesso di farvi un nuovo aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari e poi scenderemo dalla macchina, dal treno, dall'aereo, ci rimetteremo sulle nostre gambine e cominceremo a fare qualche bel progetto per il 2016 per la nostra attività fisica. Cuore e denari. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Lo avevamo anticipato nel corso della prima parte del programma. Oggi con il nostro esperto consigli per partire con il piede giusto. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno, auguri, buon anno, ben ritrovato. Non so che cos'altro aggiungere al piacere di averla con noi. Io vi saluto con tanto entusiasmo e auguro a tutti davvero un anno pieno di serenità e di soddisfazioni. Scattante anche dal punto di vista fisico. Chissà in quanti hanno ricominciato. Beh, tanto c'è chi fa oltre alla danza della pioggia anche quella della neve per rimettersi un po' in movimento sulle piste, e molti si stanno lamentando perché chiaramente le piste non è che siano state molto soddisfacenti. Posso aggiornare in diretta, in questo momento in Valle d'Aosta sta nevicando copiosamente, siamo già sui 40-50 centimetri. Quindi mi hai già inforcato tutta la dotazione d'ordinanza per partire, no, dopo la trasmissione? No, sono in partenza, sono stato qua fino a oggi, adesso rientro a Milano, quindi veramente una beffa. Benissimo. E allora, siamo mossi in altro modo, dai. Allora, abbiamo chiesto, dottor Confaloniere, ai nostri ascoltatori di raccontarci al numero verde 800 24 00 24 se e come fanno riscaldamento prima di iniziare l'attività sportiva. Cominciamo subito con il suo primo consiglio allora su questo argomento. Intanto bisogna scaldare un po' la testa e mettersi nell'ordine delle idee, che è anche proprio una questione di carattere mentale per chi l'attività fisica la fa con fatica. Mettersi, ecco, appunto, no, mi pare che l'allenamento debba partire soprattutto da lì. Ecco, questa è una prima notazione estremamente interessante e che pochi fanno effettivamente. E per affrontare in modo corretto l'attività è innanzitutto è necessario mettersi sulla lunghezza d'onda e sintonizzarsi sul fatto che adesso stiamo per fare esercizio fisico, quindi resettare un attimo la nostra testa da tutti quelli che sono stati di stress lavorativi e familiari e dire ok, adesso mi concentro sul mio corpo e sul mio fisico, mi metto ad ascoltarlo, perché in questo modo eviterò già gran parte dei problemi che potrebbero venirmi dall'attività stessa. Quindi questo è un pre-riscaldamento, una sorta di attivazione mentale che poi diventa anche biochimica e fisiologica, assolutamente importante. Poi ovviamente bisogna far seguire a questa una fase di riscaldamento metabolico, diciamo così, qui dell'apparato cardiocircolatorio, respiratorio ed enzimatico, e una sorta di riscaldamento, preparazione muscolare e tendinea, che normalmente viene fatta coincidere con lo stretching nella cultura popolare. Ecco. Ma lei dice perché nella cultura popolare della Rosciani lo stretching si fa alla fine dell'attività fisica, e invece lei mi dice che può servire anche come allenamento iniziale. Mi spiega, come riscaldamento iniziale, mi scusi. È davvero allora, così? Sì, è così. Innanzitutto bisognerebbe chiarirsi un attimo le idee sul fatto che lo stretching sia davvero utile o meno. Mentre riscaldarsi, cioè fare una fase iniziale di lavoro a bassa intensità, è sicuramente fondamentale per evitare i traumi sia a livello muscolare che a livello cardiaco, sullo stretching ci sono opinioni divergenti. Io mi ricordo un grandissimo triatleta che seguivo qualche anno fa, che quando proponevo lo stretching mi diceva: ma scusi dottore, lei ha mai visto una gazzella fare stretching prima di cominciare a correre? Ecco, questa è un po' una provocazione, però che rimane in testa. Diciamo che lo stretching non è la panacea di tutti i mali, ma indubbiamente può servire. L'ideale sarebbe fare una fase di attivazione molto blanda, quindi un po' di corsa lenta, un po' di cammino veloce, un po' di treadmill o di bike, esatto, in palestra. Il treadmill è la pedana, no? Ricordiamolo magari per chi è il tappeto, brava. A bassissima intensità, proprio per cominciare a mettersi in movimento, dopodiché fermarsi e fare quei 5-6 minuti di stretching con i muscoli già ben riscaldati. Moltissimi lo fanno come prima cosa lo stretching, e questo è un errore grave, va fatto a muscolo riscaldato. Perché sennò subito ti fai uno stiramento muscolare. A muscolo riscaldato, e va fatto in modo molto tranquillo, magari dopo ci soffermiamo sulla tecnica corretta dello stretching. Dopodiché si può iniziare con l'allenamento vero e proprio, che poi sarà ovviamente commisurato sulle nostre qualità e sui nostri obiettivi. Ecco qua. Quindi insomma lo stretching come riscaldamento non è una parolaccia, ma è una pratica diffusa e assolutamente consigliata dai medici sportivi. Esatto, e molti lo fanno effettivamente come riscaldamento. Sono molti meno quelli che lo fanno invece dopo, come giustamente consigliava di farlo lei. Cioè serve ugualmente anche dopo, proprio per ridurre l'incidenza di quel dolore muscolare legato ai microtraumi indotti dall'esercizio che magari ci accompagna nelle ore nella giornata successiva. Quindi anche qui fase di defaticamento alla fine dell'attività. Tra l'altro la fase di defaticamento alla fine è molto utile, perché ci consente di consumare in modo selettivo i grassi, e in questo momento questo può essere l'obiettivo di molti. E poi ancora 5, 6, 9, 12 minuti di stretching, a seconda del tempo e del livello dell'attività che abbiamo fatto. Beh, abbiamo fatto 2 ore di attività, ci possono stare. Se abbiamo fatto mezz'ora di palestra, sono sufficienti 6 minuti. Ecco, dobbiamo sempre commisurarlo allo sforzo che abbiamo richiesto ai nostri muscoli. Devo fare 2 chiacchiere con il nostro istruttore in palestra, perché la tempistica non è esattamente quella che ci indica lei. Stasera chiedo delucidazioni. Va bene, abbiamo già creato qualche problema. E le dirò che è tutta colpa sua. Gli dirò: senta, allora, volevamo parlare di questo stretching, spiegando ai nostri ascoltatori come va fatto, quando va fatto e perché va fatto. Sul quando mi pare che abbiamo già più o meno esaurito la pratica. Allora, invece, su questo ABC ripartiamo dall'inizio. Come farlo? Qualche suggerimento sulle tecniche giuste, perché non è che si tratta solamente, a muscolo caldo, di stendersi, fare un po' quelle movenze fisiche, qualche volta anche un po' divertenti, ma insomma c'è invece tutta una pratica, una tecnica, appunto, come dicevo, molto rigorosa, che va seguita per non creare danni. Allora, ci dica un po' da dove dobbiamo partire. Beh, innanzitutto vanno scelti i gruppi muscolari che poi utilizzeremo nel corso del nostro allenamento, perché chiaramente noi dobbiamo preparare allo sforzo quei gruppi muscolari che lavoreranno, e in particolare i gruppi muscolari che possono essere più soggetti a contratture, crampi o piccole problematiche da affaticamento durante l'allenamento. Quindi tipicamente si fa lo stretching sui polpacci e quindi sui gemelli, che sono i muscoli del polpaccio, si fa lo stretching sul quadricipite femorale, cioè sul muscolo anteriore della coscia, si fa lo stretching sul bicipite femorale, che è il muscolo posteriore, qualcuno lo fa anche sugli adduttori, cioè sui muscoli interni della coscia, e poi è buona norma fare comunque anche uno stretching adeguato su tutti i muscoli della colonna, proprio perché comunque la colonna è strutturalmente impegnata, è importante, poi ed è la zona dalla quale parte un po' tutta l'attività o gli impulsi per tutta l'attività. Quindi, una volta identificati i gruppi muscolari su cui lavorare, esistono esercizi anche abbastanza semplici di stiramento, di allungamento di questi gruppi. L'importante è capire, come sempre nell'allenamento, durata e intensità dello sforzo. Questi sono i 2 parametri a cui dobbiamo fare qualche riferimento con attenzione. E quali sarebbero? Allora, l'intensità. Inizialmente noi dobbiamo stirare il muscolo molto dolcemente, non dobbiamo quasi sentire tirare, non dobbiamo assolutamente sentire dolore, dobbiamo avere la sensazione di una leggera tensione del muscolo e inizialmente mantenere questo tipo di tensione per un tempo anche relativamente breve, 5-6 secondi, non di più. Parlo dei principianti, ovviamente, non vorrei che poi arrivasse il professionista e adesso mi mandasse un messaggio pieno di insulti. Dice che è un incompetente, certo. Esatto, mi sto rivolgendo al principiante. Ottimo. Dopodiché faccio una pausa più o meno della stessa durata, quindi ho fatto 5-6 secondi di stiramento, faccio 5-6 secondi di pausa, ripeto lo stesso tipo di allungamento e quindi di esercizio, allungando leggermente i tempi e aumentando un po' anche l'intensità del lavoro, quindi tirando un po' di più in termini molto molto pratici, fino ad arrivare al massimo a una tenuta di 10-12 secondi nei principianti. Non andrei mai oltre questa tempistica. Quindi noi stiamo in posizione di stiramento per 10-12 secondi, poi molto lentamente rilasciamo, lo sottolineo 2 volte perché l'errore che si fa è, terminato lo stiramento, rilasciare bruscamente, e questo è pericoloso, e facciamo la nostra pausa sempre commisurata col tempo di lavoro, quindi 10 secondi di stiramento, 10 secondi di pausa. Lo ripetiamo 5-6 volte per ogni gruppo muscolare e al termine iniziamo ovviamente con un'intensità gradualmente crescente, quello che è il nostro allenamento, non è che poi iniziamo a tutta, perché comunque il muscolo stirato deve recuperare la sua piena efficienza. Allora, devo ammettere che fino a questo momento, pur essendo una sportiva discreta, il mio approccio allo stretching è sempre stato molto superficiale, dottor Confalonieri, quindi da oggi si cambia registro, perché se mi è andata bene fino a questo momento, non mi sono portata a casa, me ne sono strappo particolarmente importante, evidentemente la fortuna è stata dal mio lato e quindi bisogna cambiare registro. Ci diceva che aveva due punti da approfondire, la questione dell'intensità, la seconda questione l'ha già detta. Durante l'intensità, ecco. E più o meno ne abbiamo parlato, però okay. Volevo tornare proprio su questa sua annotazione, sì. Cioè moltissimi non lo fanno bene lo stretching, lo fanno poco concentrato, lo fanno non rispettando i tempi o l'intensità. Questa, ma qual è il suo beneficio? È veramente negativo, volevo sottolineare questo. Da una parte perché può provocare dei danni, perché qualsiasi cosa fatta male, invece di essere positiva, può provocare una microlesione o un microtrauma a livello muscolare. Ma poi soprattutto noi viviamo in un'epoca in cui i tempi vanno ottimizzati e non abbiamo moltissimo tempo per fare esercizio fisico, quindi se anche non creiamo danno non ha senso dedicare 10-12 minuti ad un'attività nell'ambito magari dei 45 minuti che abbiamo a disposizione al mattino in pausa pranzo, piuttosto che la sera, qualcosa di perfettamente inutile. Quindi piuttosto che farlo male, assolutamente meglio non farlo e non perdere tempo inutilmente. Ecco, ma se ci dovesse dire, magari lo facciamo in 30 secondi per poi tornarci, qual è il beneficio che deriva al nostro corpo da uno stretching naturalmente corretto, che arriva dopo un allenamento naturalmente corretto per il nostro corpo, quello che viene fatto secondo i nostri gusti e le nostre necessità? Che perché fa bene al corpo lo stretching e al muscolo? Fa bene al muscolo e al tendine come componenti del corpo, in quanto le abitua alla sollecitazione che poi avranno, e sarà una sollecitazione intensa di contrazione e decontrazione violenta, brusca, importante durante l'attività, e quindi riscalda, attiva proprio sia a livello di temperatura, sia a livello enzimatico, sia a livello di fluidità di movimenti delle fibre muscolari, il tendine, il muscolo, ed in particolare la componente elastica del muscolo, che è una componente molto importante nel restituire energia al muscolo stesso e nel rendere più efficace il nostro movimento. Chiarissimo. Allora, in tutta questa chiarezza, pian piano siamo arrivati alle 11.45, quasi 46, è tempo di ritornare sulle strade italiane. Devo dire che c'è ancora la coda dei messaggi sulla parte precedente della nostra trasmissione, sulla questione della pedemontana. Un ascoltatore ci segnalava, mi scusi se faccio questo breve inciso, dottor Confalonieri, ma è un tema che ha surriscaldato gli ascoltatori. Qualcuno di loro segnalava che addirittura Radio 24 mandava in onda uno spot pubblicitario in cui raccontava che la pedemontana era l'unica autostrada gratuita d'Italia. Non era esattamente così, l'abbiamo ripescato lo spot, che diceva era la prima e unica senza caselli, per cui non è che si sono dimenticati di farli per gabbare gli automobilisti che vi transitano, ma perché tecnologicamente parlando era un'innovazione, quindi è stata costruita in questa maniera. Altri ascoltatori segnalano che effettivamente, oltre all'utilizzo del telepass, il pagamento del transito in questa tratta si fa online, ma è una procedura piuttosto complicata, bisogna registrarsi, inviare i documenti del veicolo, avere naturalmente delle risposte e bla bla bla. Questione della quale io vengo a conoscenza nel dettaglio in questa maniera solo questa mattina, per cui, visto che vi è interessato così tanto, magari ci ritorneremo, soprattutto sulla questione di tutti coloro che hanno preso un sacco di multe non sapendo come funzionasse il pagamento. Detto questo, adesso traffico e poi ritorniamo al nostro stretching. Cuore e denari. Dottor Confalonieri, lei me l'ha mai fatta la pedemontana? Io l'ho fatta e devo dire che la sfrutto anche abbastanza spesso. È vero che è un pochino meno economica, diciamo così, però i vantaggi che dà in termini di riduzione dello stress, di qualità della vita e di accorciamento dei tempi sono tali che spesso il prezzo vale il gioco. Questa però è un'opinione del tutto personale. No, ma in realtà lì non era la questione di quanto si paga per percorrere, ecco. La quanto delle modalità che si devono seguire, vero, per pagare. È vero, vabbè. È vero. Chiuso l'inciso pedemontana, ritorniamo al nostro stretching. Allora, c'è intanto un ascoltatore di Udine che la saluta, dottor Confalonieri, ci augura buon anno, e augura buon anno Stefano anche al dottor Gradualità, che grazie. Adesso l'abbiamo ribattezzata grazie, così Stefano. Poi c'è Luigi da Roma che ci vuole dire la sua sullo stretching. Luigi, buongiorno e buon anno. Buongiorno anche a lei. Senta, volevo rivolgere questa domanda al professore. Io pratico uno spot saltuario che non dipende da me, cioè faccio il surf da onda in Italia purtroppo solo d'inverno, insomma. Quindi è fondamentale fare un stretching perché d'inverno fa molto freddo, sì, quindi prima di entrare in acqua, poi ho anche una certa età, quindi insomma diciamo... Ma non dica così che c'ha una bellissima voce squillante giovanile, Stefano, sì. Luigi, sì. Allora, volevo chiedere al professore se esiste, uso dei termini che non so se sono appropriati, ma se esiste una differenza tra uno stretching attivo e uno stretching passivo, nel senso io prima di entrare in acqua e mi trovo molto bene, faccio un esercizio che può sembrare stupido, però che è quello di, lo spiego così in un secondo. Sì, a parole sue, Luigi, sì. Esatto, stare sdraiato con la schiena a terra e faccio dei movimenti con le gambe, si chiama cariola, adesso non so come, avanti e indietro, questo mi crea sia uno stretching sul polpaccio che mi riscalda tutta la parte dei quadricipiti, insomma mi ci trovo molto bene, da quando faccio questo esercizio non ho più strappi. Ah. C'è questa differenza effettiva tra uno stretching passivo cioè e attivo, cioè nel senso che uno stretching che nel movimento fa anche stretching, mm-hmm, e riscalda il muscolo. Chiaro. Questa era la domanda. Luigi, non grazie. Chiaro. Vediamo se Confaloniere ha bisogno di altre delucidazioni da parte sua. Sì, diciamo che non è questa la differenza canonica tra stretching attivo e stretching passivo, cioè lo stretching passivo è quando noi volontariamente allunghiamo il nostro muscolo attraverso determinati movimenti, lo stretching attivo è quando favoriamo l'allungamento, per esempio prendendo la punta del piede e stirando con forza, quindi aumentando quello che è lo stiramento che naturalmente potremmo ottenere semplicemente flettendo il piede, quindi allungando il polpaccio. Questa è la differenza. Ed in questo senso è chiaro che lo stretching attivo è più efficace, ma anche più rischioso se viene eseguito senza tenere conto da parte di chi lo fa o da parte eventualmente spesso dell'allenatore o del massaggiatore che assiste l'atleta e quindi lo aiuta a fare stretching dall'esterno, perché può comportare eccessivi allungamenti e quindi condizioni di stiramento muscolare. Questo quindi può essere un po' il problema. Scusate, c'è stato un rumore imprevisto. Ci saluti l'amico peloso. Lì, esatto, accanto. Ha capito, vero? Ha fatto un po' di stretching vocale, esatto. Si è liberato. Senta, esatto. Ma lo stretching, dottor Confalonieri, fa bene anche alla mente? Cioè, produce una sorta di benessere, sai, tutta la questione delle endorfine dopo l'attività fisica, ormai dopo 3 anni di Cuore e Denari, tutti i segreti del beneficio dell'attività fisica li ho appresi. Lo stretching produce anche una sorta di benessere mentale al termine dell'attività che completa un po' tutto quel senso di benessere che molti avvertono, no? Dopo aver fatto l'attività fisica più gradita. Beh, diciamo che non è un benessere legato alla liberazione delle endorfine, in quanto le endorfine si liberano di più attraverso il movimento, l'attività muscolare come tale, quindi tutte quelle modificazioni di tipo metabolico, ormonale, neuroendocrino che sono legate all'esercizio muscolare. Viceversa, sicuramente lo stretching, essendo un momento in cui noi ci fermiamo, ci rilassiamo e ci concentriamo sulla nostra corporeità, può darci una sorta di benessere più simile a quello indotto da tutte le discipline, se vogliamo, di tipo orientale, di tipo meditativo, in cui il fatto di concentrarci sul nostro corpo ci consente di ricanalizzare determinate energie e quindi di stare assolutamente meglio. Francesco ci scrive, qua per me è in realtà una denominazione del tutto incomprensibile sulla quale non mi avventurerei, però si riferisce nel suo messaggio ad un'attività di stretching attivo globale, Sochard, io non lo so se la pronuncia è corretta, professor Confalonieri, se lei, dottor Confalonieri, la conosce, che dice, Francesco, è un tipo di stretching che va eseguito a freddo. Le risulta? E come ci si deve regolare? Io non ho mai utilizzato questo tipo di tecnica, di cui peraltro ho sentito parlare. Ah, ecco. Quindi non ho competenze specifiche per dire quanto sia efficace. In linea generale, comunque, resto sfavorevole all'idea, soprattutto, ripeto, mi sono rivolto oggi principalmente al principiante, non all'atleta evoluto. Certamente, che sa tutto quello che deve fare. Esatto, e soprattutto chi ricomincia magari adesso in modo un po' più intenso perché è motivato dalla necessità di una perdita di peso, dovrebbe proprio evitare di intervenire sul muscolo a freddo, perché è un muscolo non allenato, un muscolo affaticato, è un muscolo magari che già presenta qualche suo problemino di usura, di vecchiaia, di precedenti incidenti, e quindi il fatto di riscaldarlo è una garanzia di ridurre fortemente il rischio di eventuali incidenti, certo, o microtraumi. Allora, dottor Confalonieri, le vacanze stanno finendo, ma abbiamo ancora due o tre giorni di tempo per consumare tutti i residui di torroni, panettoni e cibarie varie, appunto, che hanno imbandito le nostre tavole in questi giorni. Certo. Naturalmente, in tutto questo, fra un po' si riprenderà per tutti l'attività lavorativa e professionale regolare, così come l'attività fisica, si riprenderanno i corsi in palestra. Allora, per chi ha comunque alle spalle un allenamento discreto ma ha mollato un po' il colpo in questi giorni per rilassarsi anche mentalmente, stare a casa con la famiglia e godersi qualche pranzo e qualche cena natalizia un po' abbondante, adesso la ripresa dell'attività fisica la dobbiamo sostenere in maniera regolare, naturale, come se nulla fosse successo in questi giorni, o se abbiamo un po' un rotolino di girovita di troppo, la ripresa dell'attività fisica ha anche la sua gradualità, che cosa ci suggerisce? Ma no, direi in questo caso tutto sommato vengo meno al mio soprannome, nel senso che se la pausa è stata di 2 settimane, 10 giorni, 15 giorni, e se non eravamo atleti impegnati in modo molto molto forte precedentemente, si può ricominciare più o meno con la stessa intensità e con le stesse modalità di lavoro di quando avevamo terminato. Magari privilegiamo un po' di più le attività a bassa intensità o le attività intervallate, quindi l'interval training, che sono le più utili nel consumare in modo selettivo i grassi, quindi questo è il consiglio che mi sento di dare. Viceversa, guardando le persone come me che invece fanno attività magari soltanto, soprattutto in vacanza, sarebbe utile tornare e non perdere quell'entusiasmo, esatto, probabilmente endorfinico, proprio come si diceva prima, che deriva magari da aver fatto 10 giorni di sci venendo da 3 mesi di inattività, e anche in città o anche a casa continuare a fare un po' di attività fisica senza perdere quel minimo di allenamento, di beneficio e di desiderio di fare attività che la vacanza ha portato, perché ci sono anche queste persone che in vacanza cominciano a muoversi, esatto, non smettono di muoversi. Mm. Ecco. Si può sostituire lo stretching, ci chiede un ascoltatore, con delle serie a basso carico dell'esercizio che si andrà ad eseguire? Lo stretching ha dei sostituti possibili? Sì, diciamo che non è esattamente la stessa cosa. Però se noi iniziamo a basso carico e coinvolgiamo il muscolo, evidentemente lo riscaldiamo senza richiedergli uno sforzo eccessivo, e quindi lo prepariamo in un altro modo, in un modo alternativo allo stretching, a quello che poi sarà l'allenamento effettivo e quindi un poco più impegnativo. Laura ci racconta che soffre di artrite reattiva. In persone che hanno patologie di questo tipo, dottor Confalonieri, lo stretching è indicato? Andrei molto prudentemente, perché comunque evidentemente lavorando sull'allungamento muscolare si lavora sull'inserzione tendino-legamentosa a livello delle diverse articolazioni, e quindi si potrebbe andare a sollecitare in modo scorretto articolazioni che soffrono di questa patologia. Quindi lo farei soltanto dopo essermi consultato con uno specialista che mi dica: puoi fare questo tipo di esercitazioni e coinvolgendo l'articolazione in questo modo. Benissimo, allora dottor Confalonieri, tra un minuto ci dobbiamo salutare, andiamo alla rosa di raccomandazioni finali per quegli sportivi all'ascolto. Lei prima diceva: soffermiamoci soprattutto sui neofiti, sui principianti, che magari hanno intrapreso da poco una buona attività sportiva ma non dedicano il tempo adeguato e la modalità corretta, appunto, allo svolgimento dello stretching, questo quindi allungamento muscolare finale, senza la necessità di avere l'obiettivo di diventare l'uomo elastico dei Fantastici 4. Insomma, ci dia un po' 2 suggerimenti per poter svolgere questa pratica correttamente. Finale. Innanzitutto farla soltanto sui muscoli più importanti, quindi direi inizialmente quadricipite femorale e muscoli della schiena. poi farlo inizialmente con allungamenti molto molto ridotti e per tempi molto molto ridotti e dopo aver fatto un minimo di riscaldamento prima. Questi sono i tre consigli chiave che io do. Che noi incideremo sulla pietra, come dico io sempre insieme a Nicoletta, naturalmente ce le ricorderemo. Intanto noi l'aspettiamo al più presto in studio, quando viene a trovarci. Molto volentieri. Bene. Ma io sono disponibile a venire anche presto. Appena arriva Nicoletta prendo nota. Grazie, grazie dottor Confalonieri. Buon anno a tutti, arrivederci. Buon anno anche a voi, noi ci fermiamo, io ritorno stasera con Focus Economia, vi lascio al giornale radio. Buona giornata.